Ringrazio di essere venuti così numerosi, ringrazio soprattutto la dottoressa Paola Bassetti e l'associazione Cristallo. Questa è una ricorrenza, diciamo un incontro che organizziamo ormai da qualche anno, sempre con grande piacere e successo. È un incontro preliminare, diciamo, di quello che è poi il vero evento, la gita che viene organizzata, una gita illustrativa dove si percorrono alcuni quartieri della città con una loro storia, una loro fisionomia, una caratteristica particolare, che vanno riscoperti in maniera anche fisicamente coinvolgente, perché si cammina. Mi è piaciuto leggere scarpe comode, ecco, riabituarsi anche alla scoperta del proprio territorio in una maniera più spontanea, però nello stesso tempo anche più consapevole. Paola Bassetti in questo è straordinaria, perché oltre ad essere un'esperta di storia dell'arte apprezzata nel mondo culturale della nostra provincia e non solo, è una grande e abile divulgatrice di questi contenuti e riesce ad affascinare sempre con le sue illustrazioni e le sue spiegazioni un vasto pubblico. Io non aggiungo altro, perché sono molto curiosa e in attesa di conoscere questo nuovo programma del 2014. Vi ringrazio, ne approfitto per fare solo un breve spot. La biblioteca col 1 ottobre riprende questi corsi di aggiornamento che organizziamo, corsi di aggiornamento, semplicemente di formazione, di information literacy li chiamiamo, cioè dei corsi per imparare ad usare gli strumenti che noi mettiamo a disposizione del pubblico anche da casa. Quindi chi ha uno smartphone, un tablet e vuole capire o sapere come leggere il quotidiano Alto Adige a casa o sul treno, oppure scaricare un ebook delle varie biblioteche del sistema, può venire da noi il mercoledì e il venerdì, previa una telefonata, perché per motivi di così organizzativi abbiamo bisogno di un numero preciso di persone, non possiamo avere troppe persone ogni volta. Ecco, io vi ringrazio e auguro una buona serata, e grazie a te Paola di essere grazie ancora con noi. Grazie. Grazie Valeria, un po' eccessiva. E grazie alle persone che sono venute questa sera. È il terzo anno che l'Associazione Cristallo, attraverso il suo comitato culturale, organizza una passeggiata, più che una gita, okay? Una passeggiata senza i panini, ma con un rinfresco sempre alla tappa conclusiva, e attraverso quartieri noti e meno noti della città cerchiamo un po' di alternare. Abbiamo iniziato il primo anno con la zona di Via Cagliari e Piazza Matteotti, quest'anno, visto che l'iniziativa a maggio è andata in tandem con il Festival del Camminare, qualcuno forse ha seguito qualche iniziativa, e ci siamo più orientati a lambire il centro storico, il centro più antico della città. Ed è il terzo anno che, in accordo con la Biblioteca Claudio Augusta che ci ospita, organizziamo una sorta di presentazione del percorso di anno in anno, che naturalmente segue dal punto di vista concettuale i contenuti che verranno anche più o meno detti e spiegati durante la passeggiata, ma visto che qua si può stare seduti comodi e si possono usare delle immagini, la possibilità è di poter fare dei confronti dei luoghi con immagini di repertorio, immagini vecchie, per vedere che cosa è cambiato o che cosa addirittura non c'è proprio più. E durante la passeggiata invece è possibile camminare attraverso e dentro i luoghi, lo diciamo un po' sempre, non è che abbia niente di originale da aggiungere alla presentazione, ma cerchiamo sempre, come Associazione Cristallo, attraverso questa iniziativa, proprio di cercare di esternare il concetto che appropriarsi in comune, cioè condividendo dei percorsi, delle informazioni, delle notizie, è sempre un arricchimento che crea comunione di cittadinanza, che fa ben vivere vivere il cittadino e fa meglio vivere la città di conseguenza. E non mi voglio dilungare su questo concetto, però riteniamo che sia sempre e comunque importante aggiungere alle mappe mentali che uno ha, ai ricordi personali di determinati luoghi, siano essi del proprio quartiere o della città in generale, aggiungere a queste mappe personali delle mappe invece condivise e creare quindi conoscenza condivisa fra i cittadini. Penso che sia un modo leggero, ma non trascurabile del trasmettere cultura e conoscenza della propria città. Ringrazio solo il presidente Pio Fontana del Cristallo, che è colui il quale dà la possibilità di realizzare queste cose attraverso appunto la struttura del Cristallo, il comitato culturale e in particolare il responsabile organizzativo Davide Delai, che si occupa sempre di realizzare appunto i pieghevoli, i contatti, le relazioni, eccetera. E questa passeggiata sarà sabato pomeriggio alle ore 15 con partenza da Ponte Talvera, lato Monumento alla Vittoria, diciamo lato Piazza Vittoria. Attraverseremo il ponte, lambiremo le passeggiate lungo Talvera, prenderemo in considerazione la via Cassa di Risparmio, soffermandoci sui diversi edifici, sulle parti più importanti come il Museo Civico o la Scuola Dante, e proseguiamo verso le case Incis che ci sono all'incrocio con via Carducci e via Ospedale, attraversiamo la strada e facciamo un'ultima sosta al Museion, dove una guida del posto dirà alcune informazioni. Lì ci sarà un intrattenimento musicale, un bicchiere di vino per concludere la passeggiata, che sarà circa di un'ora e tre quarti, più o meno due ore al massimo come tempo. E la passeggiata è accompagnata da un pieghevole, e ogni anno ne viene fatto uno con il percorso in oggetto che voi trovate avete trovato sulla vostra poltrona, dove ci sono riassuntivamente alcune informazioni sulle singole tappe. E vorrei soltanto leggere una citazione che c'è proprio su questo concetto del camminare osservando, del camminare conoscendo, di Nives Meroy, che è stata un alpinista peraltro, che è stata ospite del Cristallo in una serata a primavera, e che in uno scritto, Sinai, dice: non c'è spiegazione più luminosa di uno sguardo, di un suono, un odore, un colore, perché la conoscenza non cade dal cielo, la raccogli da terra camminandoci dentro. Quindi lo scopo è quello non tanto di magari trasmettere grosse novità, ci sono tante cose che voi sicuramente già conoscete, però aggiungendo delle piccole informazioni storico-culturali, ripercorrendo questi luoghi il giorno dopo, magari li si guarda con un altro occhio e li si sente con un altro animo. E durante la passeggiata mi accompagna l'architetto Carlo Azzolini, che darà le spiegazioni magari più tecniche, più legate all'architettura. Partiamo da seduti e comodamente, e come dicevo la passeggiata inizia dal Talvera. Il ponte Talvera, vedete in questa immagine di repertorio, è stato inaugurato il 4 novembre del 1900, è il ponte insieme a Ponte Loreto storico della città, ma non storico solo perché è un ponte a cui i bolzanini sono estremamente affezionati. Ci fu in passato una grande campagna a favore proprio del restauro e del mantenimento del ponte, quando per un momento, a causa di motivi statici, sembrava che lo volessero sostituire. Alla luce però delle forme che ha per esempio Ponte Loreto, bene ha fatto la cittadinanza a muoversi per mantenere, e naturalmente il restauro è sempre più costoso, no, della demolizione e della ricostruzione, bene ha fatto per tenere questo ponte, i cui autori sono due ingegneri, Teccini e Fendrich, che due tecnici ingegneri del comune di Bolzano, che lo hanno progettato, e poi una ditta viennese, la ditta Wagner, lo ha realizzato in realtà in pochi mesi, perché è un ponte che testimonia anche la produzione industriale dei pezzi, che sono tutti assemblati, imbullonati, e quindi è un manufatto per l'epoca assolutamente moderno, in linea con il periodo che la città vive tra fine 800 e primi 900, nella cosiddetta epoca del sindaco Julius Peratone, la cosiddetta epoca Peratone. Era un momento particolarmente felice dal punto di vista dell'economia, del benessere della città, che si ammoderna moltissimo, ampliandosi dal punto di vista urbanistico, consolidando e migliorando alcune situazioni già esistenti, installando per esempio il tram nel 1909, così come la rete elettrica pubblica, le funivie sulle pendici, la cremagliera, le passeggiate, la lungotalvera, la passeggiata del Buncina e di Santo Svaldo, creando quella città viva e invitante, che ha favorito anche quel turismo di svago e il turismo anche di salute, che appunto ha fatto fiorire molto la città tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Molte sono state anche le costruzioni, l'ospedale che fino a quel momento era nell'edificio dell'odierna posta, ancora dal periodo medievale, tutto l'assestamento della zona di via Domenicani, via Carducci, via Dante, via Cassa di Risparmio, la costruzione di Ponte Talvera, il teatro civico, che forse è il canto del cigno prima che poi scoppi la prima guerra mondiale, che interrompe questo momento di fioritura e di felice momento urbanistico per la città. In queste immagini del repertorio vedete ancora il vecchio ponte in legno. Dicevo, è un ponte che a cui noi siamo affezionati dal punto di vista proprio così del passaggio, ma è un ponte dal punto di vista storico che in realtà non ha mai avuto una dignità, ma è sempre stata una sorta di passerella, di passaggio, che serviva unicamente ai cittadini di Bolzano o a coloro che provenivano da Gries, per esempio, all'epoca era un piccolo viaggio, o dal Meranese, di entrare e di uscire dalla città. L'altro punto di accesso e di uscita dalla città era Ponte Loreto, che permetteva di dirigersi verso sud, quindi nella Valle dell'Adige, verso Trento e Verona. Erano gli unici accessi e uscite dalla città, si pagava quindi un dazio e per il trasporto delle merci proprio in questi punti. Questa è la situazione proprio poco prima che il ponte venisse costruito e poi inaugurato nel 1900. Questa cartina storica del 1541, piuttosto nota peraltro perché la si usa spesso per vari tipi di informazioni, ci indica la situazione del greto del Talvera, che è sempre stato un terreno alluvionale molto ampio, che ha sofferto delle continue esondazioni del fiume Talvera e soprattutto del fiume Isarco, che qua vedete molto bene, molto grosso, pieno di anse. Sono fiumi, anche il Talvera era tutto rivoli che si riempiva, poi tutto questo greto nelle tempeste, durante il periodo delle forti piogge. Sono tutti fiumi che sono stati poi rettificati, reggimentati, a cominciare dalla fine del Settecento e poi soprattutto nell'Otto e nel Novecento, proprio per motivi di sicurezza. Ponte Talvera, così come Ponte Loreto, è stato distrutto molte e molte volte nel corso dei secoli e ogni volta è ripristinato, quindi ha sempre avuto un carattere, di provvisorietà. È sempre stato un ponte, necessario solo al passaggio, che non ha mai avuto attenzione di tipo estetico, fino appunto alla costruzione del ponte Liberty in ferro e ghisa nel 1900. Qui appunto vedete Ponte Talvera, questo è il ponte sull'Isarco. Le cronache, soprattutto del 7 e dell'Ottocento, ci raccontano delle numerose esondazioni di questi fiumi e della cittadinanza che si attivava. Tutti gli uomini venivano chiamati a mettere sacchi di sabbia agli argini e tutte le donne venivano chiamate per pregare arrivare in Duomo affinché le piogge e le tempeste finissero. E l'acqua del fiume è stata anche l'acqua della città di Bolzano fino alla fine dell'Ottocento. La città non aveva un acquedotto pubblico, quindi tutte le fontanelle che ancora sono testimonianza in centro storico dell'approvvigionamento dell'acqua, l'acqua veniva direttamente dal Talvera, e quando c'erano queste piogge, questi maltempi, l'acqua, succede anche adesso, diventa scura, diventa fangosa, marrone, così usciva dalle fontanelle della città, e l'acqua di Bolzano era denominata appunto nelle cronache Talfer Lagrein, per esempio. Quindi le notizie, insomma, sulla, anche solo attraversando Ponte Talvera e il Gretto del fiume, sono molte. Il ponte, dicevo, ha avuto varie forme. Nel Settecento forse ha avuto la struttura più solida e più interessante, aveva una copertura, come si evince da questo dipinto su disco da bersaglio. Questa è una cartolina d'epoca degli inizi del Novecento. Noi vediamo Ponte Talvera, vediamo i binari del tram, ma soprattutto vediamo diciamo all'imbocco di Via Museo una situazione che oggi, a parte la torretta del museo, che tra l'altro era stata tolta, era stata distrutta durante il periodo del fascismo e dell'italianizzazione, e ripristinata all'inizio degli anni 90, anche questo non senza discussioni con i pro e i contro, vedete sulla destra la casetta, la casa doganale, appunto, che vi dicevo prima. Subito dopo questo edificio, che poi vediamo anche in una fotografia, era il macello comunale, e di fronte questo qua l'edificio della cassa di risparmio, costruito da Kirchner all'inizio del Novecento, con le fogge che ha tenuto fino sempre all'epoca del fascismo, fino al 36-37, quando c'è stato tutto un restyling, diciamo, di alcune parti della città, di quest'angolo in particolare, e tutta la nuova costruzione della città al di là di Ponte Talvera, con Corso Libertà, Piazza della Vittoria, il Monumento, Piazza 4 Novembre, eccetera eccetera, tutte cose che sappiamo. Sempre una cartolina d'epoca con il tram, e una foto di oggi il cui sguardo è, diciamo, punto di vista è lo stesso. Quello che rimane uguale è soltanto la torretta ripristinata, quindi non originale, del museo civico. Resta naturalmente la faccia su Rosengarten, cambiano completamente gli edifici di quell'attacco di strada. E una seconda tappa sono le passeggiate, che non percorreremo fino in cima perché sono lunghe 1 km e 300-400 metri, così lo sapete quando andate a passeggiare, se andate e tornate fate 2 km, quasi 3 km, più il camminare per andare eventualmente a casa. Quindi rimane ancora un luogo di svago, di salute, di passeggiata, un polmone verde per la città, a cui si sono aggiunti all'inizio degli anni 70, sul progetto del comune, i famosi prati, il reinverdimento del Gretto del Talvera, che ha tolto quella sassaia che ricordo anch'io quando ero bambina, per cui anche voi ricorderete molto bene, che non serviva a niente, era anche fonte di pericoli, e hanno dato in questo modo hanno realizzato, insomma, un progetto di cui la città gode ancora oggi. Questa è una cartolina d'epoca, la passeggiata è stata inaugurata nel 1905, qualche anno dopo quindi il ponte. I progettisti sono sempre Tecini e Fendrich, gli stessi di Ponte Talvera, anche perché Ponte Talvera con le sue passeggiate, la Wassermauer Promenade, sono fin dall'origine un concetto unitario, cioè volevano essere un tutt'uno inscindibile, sia come percorrenza sia come colpo d'occhio. Naturalmente vedete le piante piccole, vedete il fiume con le anse come era in origine, e il concetto delle passeggiate lo si capisce proprio dalla denominazione tedesca, la Wassermauer Promenade, cioè è una passeggiata che è stata costruita, così concludo il discorso di prima delle esondazioni, sull'argine che è andato via via allargandosi e robustendosi del fiume, un argine che in origine, ancora in epoca medievale, era documentato pavimentato con un argine ligneo, supportato sempre dalle sabbie, dai sacchetti di ghiaia, eccetera, nel tempo si trasforma in un argine in muratura sempre più profondo, sempre più alto, tant'è vero che tra la passeggiata, il fiume e il centro storico c'è un notevole dislivello metrico, no? Se voi percorrete la passeggiata, a Castelmareccio, per intenderci, resta molto più basso. Questo perché il fiume, alluvionando continuamente, ha creato naturalmente strati di terra che sono andati a creare una sorta di collinetta che percorriamo, insomma, quando andiamo dalla città nuova, cosiddetta la città antica, al centro storico. Era così importante come dire, il concetto dell'argine, della protezione dai fiumi, vale anche per l'Isarco, che i maestri muratori addirittura hanno apposto delle piccole lapidi. Questa è la più facilmente visibile, perché basta scendere dalla scaletta a metà delle passeggiate, che poi scende vicino a Castelmareccio in vicolo San Giovanni. Forse non l'avete mai notata, non lo so, comunque c'è questa piccola piazza di marmo con scritto 1675, quindi è stata apposta in quell'anno, F.Hafner Baumeister, quindi Baumeister, no? Maestro muratore. Quindi poter rinforzare gli argini, poter dare sicurezza alla città, era un ruolo che era paragonabile a quello di un architetto. Questo per darvi l'idea di che cosa potesse essere anche proprio il rapporto della città con il suo fiume, i suoi fiumi, fatto di amore e odio e di molte problematiche. Del resto Bolzano sorge sul conoide di deiezione proprio fra questi due fiumi, nel bene e nel male, cioè sia per motivi strategici che poi con tutte le problematiche che da questo sono nate. Un'altra cartolina d'epoca ci indica come la fontana di Re Laurino abbellisse e fosse stata realizzata proprio per la passeggiata lungo Talvera. È stata poi tolta durante sempre gli anni 30, il periodo dell'italianizzazione, è stata messa in un magazzino a Rovereto ed è stata ricollocata in tempi abbastanza recenti davanti al Palazzo Provinciale. Questa è una foto di oggi che ci fa vedere l'ingresso delle passeggiate. Semplicemente sono molte cresciute le piante, hanno 100 anni, insomma, tutti gli alberi che noi vediamo, ma il percorso e il colpo d'occhio sui monti, sul Castel Raffenstein, sul complesso di Sant'Antonio è rimasto tale e quale. All'ingresso la fontanella di San Francesco, che appunto viva ancora oggi. Proseguendo, qui lo vediamo a rovescio da sotto in su, ma proseguendo si imbocca il primo pezzo di via Museo, e qui vediamo la situazione come l'abbiamo vista prima, dalla veduta da Ponte Talvera, quindi con gli edifici della Dogana, che qui si vede poco, del Macello del 1820 e del Museo Civico, anche con le sue torrette, questa con la torretta grande a cipolla, che anche sono state tolte poi con restyling dell'edificio e non ripristinate, a differenza della torretta. Qui si vede una foto invece d'epoca con la casa doganale e il macello, che sono i luoghi su cui poi è sorto l'edificio INA, attuale biblioteca civica, che conoscete molto bene, che in questo momento è anche molto degradato come portico, come luogo, ma l'edificio è un edificio di gran pregio, a prescindere che sia andato a sostituirsi su delle preesistenze di tipo storico. Qui vedete l'ultimo pezzo appunto del macello, è questo arco qui, in sostanza l'ultima parte dell'edificio, e il museo civico come si presentava in origine, realizzato da Orest Lug. E questa è la stessa, diciamo, immagine come si presenta oggi, quindi con l'edificio, la costruzione dell'edificio INA del 1937-38, e quindi con la demolizione degli edifici preesistenti e l'edificio della Cassa di Risparmi, Antonio, che diciamo ha rispettato, se così vogliamo dire, ha più che rispettato, diciamo mantenuto gli angoli arrotondati sulla via Talvera e sulla via Cassa di Risparmio, no? Come erano in origine, con la terrazzetta e la torre, ma ha completamente revisionato quello che è l'impianto architettonico. Questo si rifaceva al barocco bavarese, come un po' tutta la Cassa di Risparmio realizzata negli ultimi anni, insomma, dell'impero asburgico, risente per quanto riguarda lo stile architettonico, a prescindere che è storicismo eclettico, ma risente sicuramente delle influenze della cultura bavarese, la cultura d'Oltralpe. E Kirchner è anche l'architetto civico in carica in quegli anni, dal 1901 al 1911, colui il quale ha progettato l'ampliamento della città, appunto con l'asse di via Cassa di Risparmio e la sua ortogonale che è via Leonardo da Vinci, andando a sfondare l'ingresso poi da quella parte del centro storico su via Goethe, dove adesso c'è la Tesia, per intenderci, che prima degli, diciamo fino alla fine dell'Ottocento era chiusa, era murata dagli edifici e non si poteva passare, mentre poi hanno invece collegato con via Leonardo da Vinci e l'asse di via Cassa di Risparmio, che andava a prolungare l'asse della cosiddetta Neustadt sul progetto di Altmann, Sebastian Altmann, della seconda metà dell'Ottocento, che è in pratica l'asse di via Dante e quello di via Carducci, che era andato a raccordarsi nella seconda metà dell'Ottocento col rifacimento di piazza Domenicani, di piazza Walter ed l'asse di via Stazione. Quindi diciamo che nella seconda metà dell'Ottocento e fino alla prima guerra mondiale il riassestamento dal punto di vista urbanistico della città è stato notevole, è stato importante e ha sistemato tutta la parte meridionale della Bolzano, che era un affastellamento di vecchi edifici ancora medievali, diciamo scollegati fra loro. Questo è il prospetto dell'edificio appunto originario della Cassa di Risparmio. Questa è una veduta in tandem secondo il piano urbanistico che aveva tracciato Wilhelm Kirchner. De Lug è poi l'architetto specifico del Museo Civico. La Cassa di Risparmio, originariamente l'edificio del Museo Civico e le scuole Dante sono i tre edifici che si distinguono un pochino, che possiamo in qualche modo isolare da quella che è la prospettiva invece molto compatta e molto, diciamo, simile nella successione degli elementi architettonici che caratterizza la via Cassa di Risparmio. Questo è l'angolo tra via Talvera, questa è via Talvera, questa è via Museo Crescende, dell'edificio realizzato da Francesco Rossi, un architetto del regime, uno dei tanti, dei diversi architetti romani, come anche Piacentini per esempio, che forse è più noto, sono venuti a lavorare molto alacremente nella seconda metà degli anni 20, insomma a partire dal Monumento alla Vittoria e tutto l'asse che conoscete di Corso Italia, Palazzo Alticomandi, Piazza 4 Novembre e questa parte di via Museo che fungeva proprio da raccordo tra la città antica e la città nuova attraverso Ponte Talvera. Era previsto in origine, lo sapete anche voi, uno sventramento dei portici che poi grazie al cielo non è stato fatto, e ben venga la parte invece di città al di là di Ponte Talvera, che dal punto di vista architettonico e urbanistico ha sicuramente una funzione importante ancora oggi e riesce anche come proporzioni a tenere il traffico e insomma l'intensità del suo uso. Sono sempre immagini della Cassa di Risparmio come la conosciamo oggi, hanno diversificato i materiali che prima erano molto legati ai porfidi per esempio, e hanno importato molto travertino, che è un marmo che da noi non si trova assolutamente. L'unico marmo chiaro che noi abbiamo è quello di Lasa. Il travertino veniva portato direttamente dal Lazio con costi peraltro esorbitanti, tant'è vero che da noi qui poi apro e chiudo parentesi perché i collegamenti sono tantissimi, per esempio tutto il repertorio seicentesco e settecentesco degli altari barocchi non sono mai in marmo, sono tutti in stucco lustro o nelle chiese diciamo più periferiche sono in legno dipinti a finto marmo. L'unico altare marmoreo che noi abbiamo è quello dell'altare dei mercanti nella chiesa dei Domenicani con la pala di Guercino. Neanche Gries, neanche Novacella hanno un pezzettino di marmo. Questo per dirvi il costo che per queste zone ha sempre avuto l'importazione di un materiale nobile come questo, e quando invece in Valle Venosta, per esempio, molti portali delle chiese, molti elementi decorativi, molti rilievi e sculture sono fatte appunto con il marmo di Lasa, giustamente, che è un marmo oltretutto pregiatissimo e paragonabile al marmo bianco di Carrara. Questa è sempre un'immagine d'epoca. E che da uno scorcio su via Cassa di Risparmio, questo, ma ho un po' di problemi col mouse, ecco, questo è l'ingresso di via Museo, questo è l'incrocio in sostanza. E riguardando le immagini mi sono accorta di una cosa, ma lo chiedo a voi perché poi questi sono sempre, come dire, piccole memorie, no? Questo San Michele adesso non c'è e è stato ricollocato recentemente tutto lucido sulla casa della Caritas, che è anche denominata effettivamente casa San Michele, non so se avete notato in cima alla via. E, ecco, non so quando questo sia avvenuto e dove è stato il San Michele per tutto questo tempo, perché è ricomparso tutto lucido non molto tempo fa. E, ecco, la via Cassa di Risparmio come la conosciamo oggi è rimasta intonsa, a parte diciamo l'innesto dell'edificio dell'università, del retro già in fondo verso l'incrocio con via Dante e via Ospedale. Il resto è rimasto assolutamente intatto, forse è cambiato qualche colore degli intonaci. E l'idea della compattezza, cioè del fronte casa con doppia facciata, fronte retro, quindi via Cassa di Risparmio, via Tavera, è simile a quella dei portici, no? Cioè quella di una via compatta che non ha cortili interni. I portici hanno dei piccoli passaggi che erano i vicoli frangifuoco tra un quartiere e l'altro. La via Cassa di Risparmio ha solo il suo grande incrocio centrale e le vie che la lambiscono all'inizio e alla fine, e sono tutte case che hanno dei cavetti interni su cui si affacciano i locali di servizio, e quindi è un'architettura, la cosiddetta architettura murata, che è una concezione molto simile, con la differenza che la casa dei portici era una casa singola, diciamo così, era la casa del mercante che aveva sotto la sua bottega, sopra l'abitazione, dietro la parte di magazzini e di stalle. Le case di via Cassa di Risparmio, a prescindere che hanno degli affacci molto più larghi, sono già dei concepiti come dei palazzi abitativi con già originariamente più appartamenti all'interno. Lo stile è quello dello storicismo eclettico, cioè questo stile che diciamo soprattutto nell'Ottocento, qui fino agli inizi del Novecento, andando a confondersi un pochino con lo Jugendstil, recupera gli stili storici del passato, in particolare qui gli elementi del gotico e qualche cosa del barocco, rimangono gli elementi architettonici come gli erker, ma vengono rivisitati con forme un po' più bizzarre e con proporzioni diverse, molte guglie, pinnacole, cupolette, terminazioni a scala, vediamo se ne troviamo una tipo questa, e secondo uno stile comunque neogotico e neobarocco di provenienza nordico-bavarese. Sono case tutt'oggi molto, molto ben conservate, molto preziose, abitate, quindi insomma qui vediamo delle loggette, vediamo bordi e cornici di ogni genere. Se ci soffermiamo, tutte le case a colpo d'occhio danno un impianto unitario e viste singolarmente offrono una miriade di piccoli dettagli architettonico-artistici di grande gusto. Dicevo prima che uno degli edifici che invece si distingue dal punto di vista proprio stilistico è quello del Museo Civico, qui con le due torrette originarie. La torretta ricorda un po' quella di Vipiteno, c'è nell'Ottocento questa attenzione un po' al neomedievalismo, questo ricorda un pochino più una situazione fortificata o un palazzotto eventualmente del 400 con queste logge, queste bifore con l'archetto in mezzo, come si tendeva a costruire le residenze nell'Oltradige proprio tra 400 e 500. Questa è la visione attuale, vedete che mancano le due torrette angolari con la torre ripristinata, questa è prima del recente restauro ancora in corso, peraltro decennale, che investe il museo civico. Altro edificio che dicevamo si distingue scusate, è quello della scuola oggi conosciuta come scuola Dante, molto conosciuta come regina Elena, in origine Kaiserin Elisabeth Schule, così come era il nome della via Cassa di Risparmio. È opera di Gustav Nolte, che è un architetto di Hannover, che viene a Bolzano e anche lui prende il ruolo di architetto civico successivamente a Wilhelm Kirchner e quindi diciamo continua il tracciato, il progetto di tipo urbanistico e disegna di persona la scuola. La scuola è un gioiello dal punto di vista di tutte le componenti artistiche, architettoniche, dell'arredo, delle decorazioni interne, tutti la conoscete, è una scuola che la maggior parte dei bolzanini ha anche in qualche maniera frequentato alle medie o alle elementari, e all'interno è decorata con affreschi dei fratelli Stolz, ci sono tutta una serie di decorazioni in ferro battuto, ci sono delle ceramiche molto belle che sono ancora quelle originarie, i lampadari, proprio l'impianto originario che ancora serve alla scuola e funziona, con questa torretta centrale un po' pagoda che in realtà ha una funzione di areazione, aveva anche questo un impianto per l'epoca estremamente moderno, e un corpo centrale più evidente per via anche dell'ingresso circondato, contornato da questi archi a tutto sesto decorati da bassorilievi, e questi bassorilievi ricordano il repertorio delle decorazioni medievali, per esempio quelle di Castel Tirolo, con i bestiari, cioè queste decorazioni di fantasia con animali fantastici o legati al repertorio mitologico, con decorazioni che derivano dal repertorio romanico e diverse allegorie, come per esempio sopra l'ingresso gli alunni che leggono il libro. E anche questo è quindi un interessante esempio di neoromanico che si fonde però, date le date, siamo nel 1910-12, con degli elementi che sono invece tipici dello Jugendstil, dell'Art Nouveau. Proseguendo arriviamo e entreremo un pochino nel cortile del gruppo delle case Incis. Le case Incis sono una situazione piuttosto interessante che si trova in più luoghi a Bolzano, queste di via Carducci, così come quelle di Piazza della Vittoria, sono quelle architettonicamente più pregevoli o più interessanti, però c'è un gruppo di case Incis anche in via Colldilana, lo sapete se fate mente locale, e anche un po' più decentrate nella zona di via Verona, via Firenze, via Napoli, dove ci sono le scuole Leonardo da Vinci, ecco, un pochino più malandate e non così ben tenute e ristrutturate come queste, ma sempre un complesso Incis. E l'Incis è l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati, che durante l'epoca del fascismo viene istituito apposta nel 26 per risolvere il problema del fatto che a partire dagli anni 20 arrivano a Bolzano masse di abitanti in lingua italiana, che non sono solo gli operai che andranno ad abitare nel quartiere appositamente costruito delle semi rurali, ma ci sono anche i funzionari e gli impiegati del regime, che naturalmente vengono a governare, a dirigere, a rappresentare, hanno un ruolo alto dal punto di vista della, diciamo, della connotazione sociale, abbisognano di locazioni adeguate. Ora, non era possibile costruire la villa o il palazzotto privato per tutti quanti, come magari possedevano o avevano a Roma. Si trova, dal punto di vista architettonico, questo particolare compromesso che ci piace ancora oggi, che è diciamo, la casa pluriabitata, quindi con numerosi appartamenti, quello che noi oggi chiamiamo il condominio in buona sostanza, e fuso però con la percezione e la concezione del palazzo, e quindi di una dimensione più lussuosa e più altolocata rispetto a quella del, diciamo, delle case popolari. Ecco che quindi compaiono timpani spezzati alla Michelangelo, stemmi, bordure, diciamo, ingressi monumentali, grandi finestre per la luce, e soprattutto un'articolazione di progetto molto interessante dovuta all'architetto Calzabini, Alberto Calzabini di Roma, all'epoca un personaggio di grandissimo spicco, era anche rettore dell'Università di Napoli, la cui facoltà era stata aperta proprio in quegli anni, ma la facoltà di architettura stessa come facoltà a sé stante nasce proprio all'inizio del Novecento, quindi naturalmente i docenti sono poi diciamo anche gli architetti del regime. Calzabini era anche segretario del sindacato fascista, a quell'epoca gli ordini professionali a tutela non esistevano, e per lavorare, soprattutto per avere incarichi di questo prestigio su tutto il territorio, bisognava essere in qualche modo dentro il partito, come lo era Piacentini, come lo era Calzabini, come lo era Francesco Rossi, come lo erano tanti a quel tempo, che hanno lasciato anche testimonianze di grandissimo pregio. Il corpo delle case Incis è un progetto su impianto romboidale che comprende più palazzine, diciamo nelle palazzine ci sono poi più piani e diversi appartamenti, c'è poi un corpo centrale con edifici di servizio condominiale, diciamo così, e si formano in questo modo delle corti interne parzialmente adibite a giardino, quindi erano anche, avevano questi interni silenziosi e verdeggianti di cui si poteva usufruire negli spazi comuni. E ancora oggi le case sono abitate, sono state ristrutturate, sono vincolate dalla tutela, quindi non è possibile cambiare una finestra e farla in qualche modo, cambiare una tapparella e farla in qualche modo, è tutto sotto vincolo di tutela. La cosa interessante di questo gruppo non è solo, diciamo, la commistione architettonica e questa fusione condominial palazzo, non so come definirla, palattina, ho perso il filo. Ah sì, il fatto che da qualsiasi scorciole si veda si ottiene un punto di vista differente, cioè sono un corpo unico e unitario, poi in realtà hanno moltissimi e diversificati punti di vista che lo rendono sempre, come dire, gradevole e appagante da qualsiasi parte lo si giri. Si attraversa la strada e si arriva in un luogo invece di recentissima costruzione, nell'edificio del museo, nella sede del Museo d'Arte Contemporanea della provincia di Bolzano, costruito nel 2008 dopo un concorso molto grande che ha avuto non ricordo i numeri, ma insomma quasi 300 partecipanti di 14 paesi diversi, quindi piaccia o non piaccia, questo è il frutto per una volta, perché a Bolzano non è che succeda poi così tanto spesso, per una volta di una scelta ampia di proposte, di idee e di progetti. Questa è stata la scelta, poi ognuno considera. È un edificio progettato da questo studio KSV di Berlino, Krüger, Schubert, Van Dyck, che hanno appunto vinto questo grande concorso. È un edificio molto, molto compatto, molto rigido, un cubo in buona sostanza, e soffre un pochino della costrizione in cui si trova allo stato attuale, ma anche quando è stato costruito non c'era questo condominio, ma comunque c'era una preesistenza, e avrebbe bisogno sicuramente di un po' più ampio respiro nel suo intorno. È comunque appunto una struttura rigida con queste due facciate che non sono un davanti e un dietro, sono proprio due facciate, una da e con lei, scusate, collega l'edificio con la città, l'altra, che è quella che vediamo qui, collega l'edificio, affaccia l'edificio sui prati del Talvera e sulla passeggiata San Quirino. Più recente è il collegamento dei ponti, così incurvati in modo diversificato, uno pedonale e uno ciclabile, che hanno sicuramente favorito questo continuo attraversamento, che vedo che è molto, molto usato, ha sicuramente aiutato a entrare un po' nella bocca del Museion, che ancora è un corpo, almeno nel suo interno, un po' estraneo alla città. Il suo esterno mi pare che invece adesso sia percepito come uno spazio, come dire, introiettato. C'è una caffetteria che viene molto usata, e c'è il passage, il museo passage, che è stato anche aperto successivamente, per cui è possibile anche attraversarlo, entrare da una parte, uscire dall'altra e per esempio dare un'occhiata alla biblioteca, alla libreria, e ha questi due corpi trasparenti che sono le due facciate, che hanno questo sistema, si vede bene nelle due foto, lamellare, che si può aprire e chiudere, che se viene completamente chiuso può diventare schermo per proiezioni, per conferenze, per eventi estivi. L'origine di Museion è che si chiamava Museo d'Arte Moderna, peraltro, è legata a Pierluigi Siena, che ne è stato direttore dal 1985 al 2000, mi sembra assolutamente giusto riconoscere questo. Luigi Siena, in un'intervista, quando era molto anziano, non molto prima di morire, aveva detto: non c'è spiegazione più luminosa di uno sguardo, no scusate, aveva detto: questa roba potrà anche non piacervi, ma non potrete essere protagonisti di questo tempo senza conoscerla. E ritorniamo all'introduzione iniziale, al fatto che se conosciamo come minimo, insomma, ci affezioniamo in qualche modo, e la criticità e l'aspetto critico è sempre bene accolto se è costruttivo, e può essere costruttivo solo se si conosce, altrimenti è una critica vuota. Oggi diciamo, il museo ha cambiato poi diverse conduzioni, diverse direzioni. Oggi Letizia Ragaglia lo conduce, i Bolzanini ancora non sono in grande sintonia con le cose proposte, però diciamo è un oggetto che ha una vita molto recente, e confido, come tutte le cose, che poi nel tempo già i ponti, insomma, lo hanno fatto avvicinare alla cittadinanza, confido che pian piano ci si potrà entrare anche dentro con più facilità. Qui la passeggiata si concluderà, come ho detto, se vi può essere, come dire, se può essere un'esca accattivante, ci sarà un bicchiere di vino e un po' di musica per chi sabato avrà piacere di fare la passeggiata, altrimenti oggi comodamente seduti abbiamo potuto vedere le cartoline di repertorio, che sabato invece non sarà possibile usare come termine di paragone. Vi ringrazio, e per chi vuole ci vediamo sabato. Grazie. Volevo ringraziare. ringraziare ancora per l'illustrazione e volevo chiedere, fare una domanda. Fino a qualche anno fa, anzi una quindicina di anni fa, c'erano i segni evidenti sulle casette che dal museo vanno in su verso il ponte Tarvera, sì, dal lato appunto dall'altra parte, sì, della città vecchia, i segni evidenti sulle case delle mitragliate, sì, di quando erano stati presi, catturati l'8 settembre, sì, alcuni soldati italiani e lasciati sul ponte, su questo gretto del Tarvera per un giorno o due, finché, sì, poi, sì, non sono stati destinati. Questa cosa mi ha fatto un'impressione, e mi dispiace che oggi questa memoria sia stata completamente cancellata con delle ristrutturazioni, che almeno fosse stato lasciato così, come ogni tanto c'è un pezzo, una bomba, no? Anche sul Tarvera, per, sì, esempio, a un certo punto, sì, c'è un pezzo di un'ogiva esplosa, sì, no? Su una casetta, sì, per scendere giù al vicolo, sabbia. Così questo secondo me poteva essere almeno una lapide dell'8 settembre, che un segno di questo solco, sì, almeno su una faccia, era pieno dei nostri soldati che dovevano andare poi. E l'ho scoperto proprio per caso, andando alla civica, tra l'altro, sì, da studente, no? Si attraversava la strada, a un certo punto un nostro amico, aveva il papà che era ragazzino all'epoca, quindi aveva era un testimone molto colpito da questa cosa, e ma guarda che lì, quelli sono segni delle mitragliate partite quella giornata. Un nostro cugino era in caserma, in servizio militare, e è venuto da mio padre, lo zio, a chiedere consiglio. E mio padre, sì, cosa gli ha detto? Torna in caserma, figliolo. Sì, sì, e gli è andato a finire in un lago in Germania. E bisognava solo scappare, ma il grito era terribile, sì, pieno di merce umana. Purtroppo anche quella, sì, certo, quella parte di bello, sei una... bello quello che hai detto. Sì, molto. Brava. Bene. Una domanda, prego, sì, cosa, scusa, e un po' diversamente, cosa ci dice di quel progetto di sviluppare via, no, Parco Petrarca e sopprimere la strada che va dalla stazione in Piazza Walter, ho sentito? Ah, del progetto Benco, non più Benco, insomma. Va avanti questo? Ma va avanti per forza, perché sono stati presentati due progetti, cioè va avanti dal punto di vista teorico sicuramente, la realizzazione pratica io questo non so dire, perché non credo che nessuno lo sappia dire poi come questa cosa si svilupperà. Ma per queste cose si possono proporre il referendum come hanno fatto per la funivia di Bressanone? E vedere un pochino cosa ne pensa la città. E qui bisogna raccogliere, che una persona si raccolga le firme, poi ce ne devono essere un minimo di, non so, 5.000 o quante sono, e poi si presenta l'istanza in comune. Il cittadino può prendere le iniziative che ritiene giuste, divulgarle e prendersi la briga di raccogliere tutte quante le firme, se le persone firmano, se sono d'accordo, se l'iniziativa risulta di un qualche interesse, e poi si presenta istanza di protesta e poi va avanti o non va avanti a seconda dell'impatto che un eventuale argomento ha oppure no. Come è successo a suo tempo per il ponte, è stato un po' un esempio chiave, un esempio sicuramente che non si è più ripetuto con quella come posso dire, comunità di idee per ristrutturare il ponte e non destrutturarlo. Però il cittadino è quello che ha voluto i prati, perché l'ha fatto quasi di nascosto. Lettieri, penso, no? Certo, Lettieri, certo, l'ufficio tecnico del comune, sì, anche questo è stato adesso un bel progetto. Ogni volta che lo vedo gli sorrido, perché quei prati non era un grande insegnante a scuola, perché non aveva tempo, portava gli studenti a misurare per fare questi rilievi. Sì. No, è incredibile la forza e il carisma che ha avuto nel riuscire a convincere non so quanti studenti, soldati e via dicendo, subito a lavorare. Ma il progetto era del comune o no? No, il progetto era suo. No, quindi bisogna dire, perché è un eroe proprio. Sì. di nascosto. Io avevo Prego. Un'altra domanda. La scuola, l'attuale scuola d'arte, sì. è nata come edificio? È nata come scuola e era previsto un corso di 5 anni di tipo elementare che aveva poi una prosecuzione in 3 anni di cosiddetta scuola civica che permetteva poi un avviamento alle scuole commerciali e c'era una elementare, diciamo così, di 6 anni per chi, della lunghezza di 6 anni per chi prevedeva di fermarsi con una licenza elementare. Era solo maschile perché la scuola femminile era corrispondentemente alle attuali scuole Goethe su in via Castelroncolo e volevo dire ancora sì, l'insegnamento ovviamente era in lingua tedesca fino agli anni ibridi tra il 19 e il 22 quando poi è passato l'insegnamento forzato della lingua italiana. La scuola è stata occupata nel 22 dai fascisti, ci sono stati eventi abbastanza drammatici e la valutazione andava sempre dall'1 al 10 però viceversa come si usa adesso in Germania, cioè l'1 è il voto migliore, 10 è il voto peggiore. Questo è quello che so, che ricordo della scuola. E tutto il progetto degli interni, quindi non so, le decorazioni in ferro battuto, le ceramiche, i lampadari, i bordi, le bordure, erano state tutte progettate dagli insegnanti e dagli alunni della Fachschule, che è stata una scuola straordinaria, una scuola professionale, diciamo così, di Bolzano, dove peraltro gli alunni hanno concepito insieme agli insegnanti gli apparati decorativi. Penso che, siccome parlavo prima con Valeria, poi adesso divaghiamo, dei figli che abbiamo adolescenti, per cui la parola più ricorrente quando torno a casa da scuola è che noia. Ho detto se diciamo coinvolgessero gli alunni in progetti che riguardano la città, anche le scuole professionali, i licei, cioè a tutti i livelli, penso che anche quello che dicevamo prima, il condividere, il conoscere, il dedicarsi alla città, il costruire insieme, il camminarci dentro, poi appunto farebbe di noi cittadini e dei nostri figli cittadini sicuramente più consapevoli, un altro percorso. Cioè un po' meno scollamento con la realtà in cui camminiamo, appunto. Grazie. Prego. Volevo dire da bambina alle scuole medie ero in classe con la Stefania Rossi, non sapevo chi fosse, era la figlia dell'architetto Francesco Rossi. E lei un giorno mi ha detto vieni da me a fare i compiti e stavano in casa Ciona, quella via Cappuccini, via Guglielmo Marconi, sì. All'ultimo piano un appartamento stupendo. Io sai, sono entrata, ho visto un bellissimo busto e ho detto è Mussolini e lei ha detto ma no è mio padre. Io sai l'idea del busto del papà. Era collegato solo a Mussolini. Sì, all'epoca sì. Sì, ed era molto molto viziata, molto elegante, si vede che il papà lavorava bene. Ecco, avete una grossa curiosità. Nelle scuole vengono praticamente svolte questi momenti insieme, per cui la memoria di chi ha i capelli bianchi può essere portata nell'adolescenza addirittura, in quello che adesso è un discorso che sembra che non ci sia un punto di a cui aggrapparsi. Queste iniziative che riuniscono, non ci sono, queste proposte, riunire praticamente un discorso che viene quasi evitato, questa esperienza di un passato che porta nella semplicità della vita qualcosa che ha valore e che darebbe anche a questi ragazzi che si perdono molto in tutto ciò che è telefonistica, sì, sì. Cioè un discorso assente a quello che è proprio l'umanesimo, lo stare insieme umanamente. Ecco, io non trovo e non mi risulta, forse perché forse non ne sono a corrente, che ci siano degli incontri promossi proprio. Non lo so, io non sono un insegnante, quindi non posso dare una testimonianza di questo. Io credo che ci siano insegnanti e classi che organizzino cose di questo tipo e molte altre no. E dopodiché Sì, ruolo alle nonne. Poi non toglierei ai ragazzi la tecnologia, nel senso che il telefono e l'iPad è roba loro, è giusto che ci sia, è che andrebbe collegata con la realtà. Questo lo dico perché io concreta. E lì sono residenti e sono di lingua madre tedesca, perché il papà appunto è di lingua madre tedesca. E avevano fatto una cosa graziosa, proprio le ragazzine, e avevano proposto un incontro con i nonni. E la scuola ha telefonato, pieno di entusiasmo e tutto. E io ho detto, beh, allora così, la graziosa, sono passati 2 anni, è andato proprio, l'hanno evitata. Ho proprio avuto la sensazione di evitare. Senta, guardi, per le scuole appunto è un po' difficile, come diceva la dottoressa Bassetti, è chiaro che va a discrezione anche non solo del preside ma poi del singolo professore, che reputa o meno importante tesaurizzare la memoria di qualcuno finalizzato magari a quello che stanno facendo. Le biblioteche invece hanno proprio questa missione, e in particolare questa ce l'ha, e noi da quando siamo nati, dal 2001, stiamo andando avanti con questi progetti. Quindi se lei guarda poi le nostre attività vedrà che, ma questa è una cosa che viene portata avanti dall'UNESCO, è l'UNESCO che dice alle biblioteche dovete andare e collezionare e fissare la memorialistica, perché come lei ha sottolineato è molto importante, ci sono delle cose che purtroppo non possono essere mantenute, no? Anche dal punto di vista urbanistico eccetera, di decorazione eccetera, però possono essere comunque trasmesse. No? Certo. Anche una parte della storia che riguarda il singolo individuo e che racconta, sì, l'8 settembre io ero lì, ero un bambino, stavo giocando, mia madre mi ha chiamato a casa, e sono dei messaggi che poi fissano molto meglio nello studente il ricordo di quella data, quel tipo di evento, ecco, che si inserisce poi in un quadro più complesso. Noi lo stiamo facendo da tanti anni, abbiamo intervistato credo 300 persone. Chiaramente un po' perché le conosciamo, un po' perché si sono proposte, però abbiamo anche spesso fatto questo appello durante, io non è che ogni volta posso rubare il tempo al relatore con i nostri spot pubblicitari, però chiaramente frequentando le biblioteche si coglie anche queste occasioni. Se l'invito che abbiamo fatto spesso è quello di dire, se avete un diario, se avete scritto un memoriale, se conoscete qualcuno, venite, se avete piacere lo presentiamo, facciamo una serata di questo genere e soprattutto ci date una copia che la cataloghiamo. Quindi questo, noi abbiamo una sezione memorialistica e abbiamo fatto anche degli incontri proprio dove abbiamo invitato le scuole la mattina. La biblioteca esiste per questo, perché la scuola, vede, è un target molto difficile, nel senso, non difficile, molto selettivo. C'è l'alunno che deve fare un percorso e c'è una classe. La biblioteca invece è veramente un luogo molto democratico. Lei viene, non mi deve dire come si chiama, capito? A meno che non so, mi chiede un prestito, allora deve iscriversi, eccetera, eccetera. Però è un posto dove uno viene, chiede, pure dice, ma io avrei piacere fare questa cosa. Perché ci sarebbe era, sì, sul tema culturale, certo, punto primario. Ma il discorso è anche che secondo me questi giovani vanno abituati anche con un'esperienza di vita, perché è come se loro vivessero in un mondo di appartenenza loro e non hanno, è chiuso e non hanno sbocchi, non hanno, è come una camera che non ha la finestra. Però se lei gliela apre loro sono curiosissimi, perché appena inizio a raccontargli solo che c'era il muro in via Resia, mi è capitato di dire di, non le mie figlie non con la pretesa di dire oddio come stavamo male noi adesso, no, state a vedere dopo sono curiosi, però esce un portare a loro delle condizioni anche che sono state di vita, perché insomma, diciamola breve, noi siamo persone ormai sugli 80 anni, ce ne sono tanti, 80 anni, è compresa. Di conseguenza, ecco che c'è tutto un adeguamento al progresso, tutto quello che tutti gridano al progresso e noi tanti momenti, diciamo, regrediamo. Cioè, è un aiuto tra le varie generazioni. Certo. E questo mi sembra che culturalmente, certo, ma certo, guai, non fanno, ma manca proprio a loro un discorso facile, però ci sono anche gli enti che lo fanno, perché anche l'archivio storico lo fa, cioè ci sono, anche la realtà, famiglia, anche la famiglia lo fa, ecco. La famiglia. Però se le ha piacere, noi qua siamo anche per questo. Quando ho raccontato della mia guerra, mi ha detto che fortunata che sei stata tu nonna aver vissuto una guerra. Sì, sì, no, è vero, è vero, è vero. Raccontando della lama, che lei mi ha parlato, che fortunata. La domanda, non so se è la, diciamo, l'interlocutrice a cui porre questa domanda, però gliela faccio. Non saprei. Allora, per quale motivo, questa è la mia opinione personale, per quale motivo una qualunque mostra al Martiro Veneto è entusiasmante ed una qualunque visita al museo è per me totalmente deprimente? Sì, senza avere un paragone di questo tipo, o cioè... Andiamo su un bel terreno minato, non mi sembra la sede. Comunque, se uno si sente male lì e bene là, questo io, cioè, nella sua percezione, nella sua anima, nella sua sensibilità, non posso entrare nel merito. Quello che una volta ho pensato, ma è un'opinione totalmente assolutamente mia, a parte che danno due tipi di comunicazione pubblicitaria e a livello di marketing completamente diversa, sono due scelte diverse, arrivano a, evidentemente, a un pubblico anche diverso, e perché il museo non è molto frequentato, solo non è frequentato dai bolzanini. Mi chiedo se qualche volta potessero dare un titolo alle mostre invece che mettere il nome che non conosciamo, perché è per addetti ai lavori, mettessero, non so, il blu nel paesaggio di Pinco Pallo, forse le persone dicono: ah, si parla del blu, oppure si parla di tele, o si parla di sculture, o si parla di paesaggio. Ecco, ogni tanto dovrebbero, secondo me, proporre, cioè, non dico mostre tematiche, che ne abbiamo fin sopra i capelli, ma titoli con dentro magari un tema chiave che possa fungere un po' da apriporta per il museo, perché se mi mettono soltanto il nome e il cognome del giovane o magari anche dell'anziano artista contemporaneo, non siamo tenuti tutti ad essere del settore, cioè chi ha voglia si interessa, va a vedere chi è questa persona, da dove viene, che tipo di cose fa. Con internet si può fare in un minuto, o entra in Museion e sfoglia il catalogo che c'è nel bookshop e dice: bah, sta roba me la vado a vedere oppure no. Questo è iniziativa personale, indubbiamente. Dopodiché non siamo, naturalmente, nessuno è tenuto a conoscere qualsiasi cosa, ognuno ha i propri settori e i propri interessi, no? Però sicuramente fanno cose molto di selezione e sicuramente non cose di cassetta, ecco, ma questo può essere anche una virtù, voglio dire. Certo, devono trovare forse un filo, cioè un gancio, ecco, un gancio un po' più attraente, sì. Ma anche a livello proprio di comunicazione personale, così. Perché le scuole, per esempio, vanno molto a Museion, perché c'è un laboratorio didattico, possono lavorare, hanno un laboratorio fotografico, cioè le scuole vanno lì, non vanno al museo civico, per esempio. Quindi. Ma se posso dire una cosa, è un po' il problema della città di Bolzano. Mm. L'EURAC non è conosciuto. Mm. L'EURAC è un mondo di ricerca, un mondo di laboratorio, è una finestra aperta sul mondo non solo della tecnologia, ma anche della medicina. Io sfido, vorrei fare un'indagine, vedere quanti bolzanini sanno cosa si fa all'EURAC e cosa fa l'EURAC, soprattutto anche d'estate, per esempio i laboratori di lingue, no? Per i ragazzi. Cioè, ci sono dei ricercatori, hanno aperto delle sedi nuove perché ci sono dei ricercatori che soprattutto lavorano in parallelo con l'ASL per la medicina, ma ci sono anche dei ricercatori a livello, non lo so, per esempio, lo studio della mappa della costa terrestre, adesso mi vengono in mente delle cose così, no? Ma anche delle cose artistiche, cioè l'Euro che è veramente una finestra aperta sul mondo a 360 gradi. Pochissimi sanno cosa si fa. Forse, Sandra, questo è un problema di comunicazione, perché io lo dico subito. subito. Io al mare sono continuamente, sempre spesso, tu lo sai, mi piace tantissimo, a parte che mi piace anche proprio l'ambiente umano, l'atmosfera che respiri quando entri al mare, è bellissimo. Qui diciamo che siamo abbastanza respingenti, ma poi forse è un problema di comunicazione. Come mai io, che insomma sono abbastanza interessata alle cose, hai ragione perfettamente, io non lo so. Hai ragione, io non lo so. Del mar so tutto, continuamente, con le amiche, coinvolgo tutte, facciamo viaggio, andiamo giù, siamo sempre lì. Adesso, cioè, domani notte, c'è un programma che se uno lo legge e apre, e fa paura, perché non basta un mese per guardare tutto. Ma perché non lo so neanche io? Sicuramente il 70%, l'80% dei giorni. Però qui dobbiamo anche capire una cosa. Allora, se uno va dentro l'Eurac durante il giorno, cosa trova? Niente. Ci ho andato più volte, non si trova nulla. Perché capisci? Ci saranno le persone che lavorano, però non è che parlare di io ho parlato con Snuffles, il direttore, anche per altre situazioni, per conoscere che cosa l'Euro. Assolutamente, non c'è nessun rapporto, non con la città di Berta, ma neppure con il cittadino colto che vuole interessarsi. E lo stesso discorso, ecco, il museo non si va perché non espongono opere. Opere espongono queste mode che sono portate non da artisti, ma è un business, è quello il discorso. Ricordate la fondazione, la chiesa del museo, se non ci fosse stata la famosa rana crocifissi, nessuno saprebbe in Italia che esiste un museo. A parte che la costruzione architettonica non mi permette di discutere, no, non è un museo. Come si fa un museo che non ha la luce? Ha la luce contraria. Come vengono esposte le opere? Se lei mette il quadro sulla parete sinistra, lei ha due luci, una sinistra e una destra. Non ci sono neanche le pareti per quello. Quando hanno fatto l'inaugurazione era addirittura un dramma, con quelle piccole stanzette, con quelle porticene maleodoranti dove vengono dentro il video. Dove sono andate a finire il video? Il museo non può, cioè quel lavoro che vorrebbe fare un museo non dovrebbero fare le gallerie d'arte in generale. Le gallerie, l'artista espone, poi se questo artista è valido, poco a poco entra in museo. Sì, funziona no, come una galleria. Lì vengono comprate delle opere, ad esempio in Polonia, le ultime opere che sono riuscito a vedere. Sono stata io. Ma non è la mancanza, cioè, dei ci sono forme di vita anche sotto la mancanza della preparazione. Sì. No, io non dicevo che era mancanza dei cittadini, mi raccomando. Se lei entra al museo, innanzitutto chiede per favore informazioni. E che informazioni le danno? Guardi, là ci sono i cataloghi. Posso intervenire? Sì, sicuramente. No, così. Ecco, chiaramente a me piace la biblioteca, lavorare in biblioteca secondo me è uno dei più bei lavori, anche perché si può sempre esprimere comunque il proprio, le proprie opinioni, e anche queste sono occasioni preziose. Senti, io direi una cosa, sabato c'è anche la possibilità di fermarsi lì, vero? È lì la sì, c'è, ci sono due guide di quelle di museo, non so che cosa ci diranno, ma insomma gli onori di casa li fanno loro, perché ovviamente non è il nostro territorio, no? Forse noi potremmo solo almeno arrivare a una conclusione che in questi edifici si fanno delle cose e sicuramente saranno importanti, magari che le comunichino un attimo meglio. Pregevole l'iniziativa di queste serate dedicate alle scienze, anche io ho visto il programma, è molto intenso. Che sia anche però magari più empatica l'entrata di questi edifici, almeno forse meno barriera. Sì, ecco, con più presenze, più vita, dove uno ti accoglie e dice guarda, sta succedendo questo e quello. Femminile. Ecco. Il cittadino ha bisogno di questo. Probabilmente se noi faremo il polo, cosa che penso ormai sia più di un'idea, ecco, dalle ultime notizie abbiamo visto che c'è stato lo stanziamento. Sì, ecco, insomma diventa sempre più concreta la cosa. La prima cosa che faremo è far vivere l'entrata, dove il cittadino viene e si sente protagonista. Penso che abbiamo bisogno tutti di essere un po' oggetto di attenzione, ecco, nella nostra esigenza informativa, nel nostro piacere di capire cosa viene fatto, eccetera, eccetera. Ecco. Perché non tutti hanno la capacità di andare a cercare le cose, bisogna una società dove vogliamo essere. Sì, quello purtroppo lo dice anche una banca, no? Tutto intorno a sé. Noi siamo così. Grazie Paola. Grazie.